24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi l'economia, con l'inizio delle trattative a Lisbona sul piano di salvataggio europeo per il Portogallo. Il tutto mentre i mercati continuano a temere una ristrutturazione del debito greco e abbassano ancora i rating delle banche irlandesi. Ma torniamo anche a parlare di immigrazione, con Bruxelles che dà ragione alla Francia sul blocco del traffico ferroviario domenica al confine, e analizzeremo pure l'avanzata dei nazionalisti in Finlandia che inquieta le cancellerie europee. Al via ieri a Lisbona, come dicevamo, le trattative politiche tra Unione Europea, FMI e il governo del premier dimissionario socialista José Sócrates sul piano di salvataggio finanziario chiesto dal Portogallo, in una fase resa delicata dal successo in Finlandia del partito di estrema destra ostile all'aiuto europeo al paese lusitano. La troica negoziale ha avviato le trattative con il ministro Fernando Teixeira dos Santos. Il piano di salvataggio chiesto da Lisbona dovrebbe comportare prestiti per circa 80 miliardi di euro. Un accordo dovrebbe essere siglato per il 17 maggio. La trattativa è complicata però dalla situazione interna difficile del paese. Elezioni politiche anticipate sono state fissate per il 5 giugno. Ma a pesare sono anche fattori esterni, quali l'exploit degli euroscettici in Finlandia, Helsinki rispetterà gli impegni presi nei confronti del Fondo di Stabilità Finanziario Europeo, creato in occasione del salvataggio dell'Irlanda. Lo ha sottolineato una portavoce della Commissione Europea in seguito agli interrogativi sollevati dal successo registrato dal Partito Populista. Il malcontento per l'immigrazione è stata quindi una delle ragioni alla base dell'exploit dell'estrema destra in Finlandia. Nelle elezioni politiche che si sono tenute domenica hanno vinto i conservatori, ma il partito populista, nazionalista ed euroscettico dei veri finlandesi è balzato al terzo posto. Un risultato a sorpresa? Maria Luisa Pezzali lo ha chiesto al giornalista finlandese Pertti Lepisto, corrispondente dall'Italia per diverse testate. Non a sorpresa, perché erano avanti già anche i sondaggi, però storicamente questo è un vero scossone, perché ultimamente solamente 40 anni fa un partito ha avanzato così tanto nelle elezioni parlamentari. Alla base del successo vengono citati il malcontento per l'immigrazione e le conseguenze della crisi economica. Il motto di questi veri finlandesi, come si chiamano, è Finlandia ai finlandesi. Quindi sicuramente è un partito populista, come il suo leader Timo Soini, un personaggio populista e pittoresco. Quindi ha giocato su questi elementi, la frustrazione in qualche maniera i finlandesi verso l'Europa. Noi stiamo bene perché dobbiamo pagare per gli errori economici degli altri. Crisi economica, ascesa dei partiti xenofobi e immigrazione, tre temi strettamente collegati nell'attualità europea. Per fermare la marea montante dei partiti populisti, quello che manca oggi è leadership e solidarietà. Non faccio altro che ripeterlo. Questo è il commento della commissaria per gli affari interni Cecilia Malmström sull'avanzata dei partiti populisti in Europa che, come in Finlandia, sfruttano le paure suscitate dai flussi migratori. E parliamo ora proprio di immigrazione e del flusso che dal Nord Africa preme verso l'Europa. Sul blocco dei treni dall'Italia verso la Francia, deciso domenica da Parigi per motivi di ordine pubblico, Bruxelles dà ragione proprio alla Francia. Sul blocco dei treni in arrivo da Ventimiglia, Bruxelles dà ragione alla Francia. La Commissione Europea spiega che il trattato di Schengen può essere sospeso per ragioni di ordine pubblico e che non è stata quindi una violazione lo stop al traffico ferroviario voluto ieri da Parigi per timore di una manifestazione non autorizzata dei centri sociali, una precisazione che sembra per ora allentare la tensione fra i due paesi. Dopo la dura presa di posizione di Frattini, oggi la Farnesina fa sapere che l'incidente è chiarito e risolto. Dichiarazioni distensive arrivano anche dal ministro dell'Interno Maroni. Mi pare che adesso la situazione sia tornata normale. Confidiamo che nel vertice del 26 si possano risolvere amichevolmente queste questioni, che non ha senso che continuino a permanere. Anche il governo di Parigi nel frattempo fa sapere di non volere tensioni con Roma sulla questione degli immigrati tunisini. Dei flussi migratori dal Nord Africa domani parleranno a Cipro i ministri dell'interno di alcuni dei paesi europei interessati dal fenomeno: Italia, Grecia, Cipro e Malta. Non ci saranno invece i rappresentanti di Francia e Spagna. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Così il ministro dell'interno all'interno italiano Roberto Maroni. C'è stato questo blocco dovuto a una manifestazione dei centri sociali a Ventimiglia che ha determinato questa reazione delle autorità francesi. Mi pare che adesso la situazione sia tornata normale. Confidiamo che nell'incontro del 26, nel vertice del 26, si possano risolvere amichevolmente queste questioni che non ha senso che continuino a permanere. Sarà a distensione tra Parigi e Roma in vista del prossimo vertice il 26 aprile? Sentiamo il commento dalla capitale francese di Marco Mussanet del Sole 24 Ore. Io non credo che ci sia alcuna distensione da parte di Parigi, cioè non bisogna leggere le parole per quello che sono. Il ministro dell'interno francese Guéant, è vero, ha detto di non desiderare che ci siano tensioni fra Italia e Francia, ma ha ribadito la posizione molto netta della Francia. Poi ieri c'era un episodio specifico che ha consentito alla Francia di mostrare i muscoli, e se sarà il caso si ripeterà. La Francia ha a disposizione uno strumento ampiamente discrezionale, che è quello delle risorse finanziarie. Il regolamento francese prevede che il poliziotto, che la polizia possa intercettare il migrante e chiedergli quanto tempo intende trascorrere in Francia. Sulla base di questa risposta ha il diritto di verificare se il migrante è in possesso della cifra sufficiente, e cioè 31 euro al giorno qualora abbia qualcuno che lo ospita, ma deve essere in grado di dimostrare di averlo, o 62 euro al giorno nel caso in cui non abbia qualcuno che può ospitarlo. E noi intanto abbiamo incontrato i tunisini che attraverso l'Italia cercano di raggiungere la Francia. A Rezzo Aglio, un pugno di case sull'Appennino Ligure, per i tunisini l'attesa è scandita dalle notizie che rimbalzano da Ventimiglia, crocevia obbligato e ultima meta intermedia prima del capolinea agognato del loro lungo viaggio, la Francia. Arrivati in 30, qualcuno si è già allontanato dall'albergo nel quale è ospitato il primo gruppo di immigrati inviato in Liguria. L'obiettivo è, diciamo, raggiungere le sue famiglie in Francia. Alcune sono andate già da ieri, domani quasi 10 dovranno partire, diciamo. Ma il viaggio è incerto, con la frontiera che si apre e si chiude a singhiozzo. Il loro arrivo a Rezzo Aglio è stato deciso all'ultimo istante, con il sindaco preso in contropiede e gli abitanti preoccupati e un po' smarriti, come gli occhi dei tunisini che, provenienti da Caserta, non pensavano di finire a 1000 metri d'altezza e lontani dal mare. I carabinieri vigilano, ma finora tutto è filato liscio. Grazie Italia, grazie governo, tutto va bene in hotel. Sto andando a Parigi. Sarkozy is not good. Andrea Ferro, Radio 24, Sole 24 Ore, Genova. Il Parlamento ungherese ha approvato una nuova costituzione ultraconservatrice grazie ai soli voti del centrodestra al governo. Tra i punti più controversi, il riferimento nel preambolo a Dio e al cristianesimo come elementi unificanti della nazione. La nazione politica viene identificata con la nazione etnica, discriminando quindi di fatto le minoranze non magiare che vivono nel paese, e prevede pure il diritto di voto per gli ungheresi che vivono nei paesi vicini, con il rischio di creare attriti con Slovacchia e Romania, dove vivono forti minoranze magiare. E apriamo ora la pagina economica. Focus sull'andamento delle borse, penalizzate ieri dalle previsioni di Standard & Poor's, che ha rivisto al ribasso le prospettive sul debito americano. Sentiamo com'è andata a Milano. Chiusura in rosso per le borse europee, penalizzate dalla notizia che Standard & Poor's ha tagliato il giudizio sull'economia statunitense. Notizia che è andata a sommarsi ai timori per il debito sovrano della Grecia e dell'Irlanda. Milano è stata la peggiore, trascinata in basso dalle azioni delle banche e delle assicurazioni. Il FTSE MIB è scivolato del 2,92%. Le azioni delle banche hanno tutte accusato flessioni tra il 3 e il 4%. A guidare i ribassi sono state le Banco Popolare, meno 4,8%, e le BPM, meno 4,5%. Quest'ultime nell'attesa del Consiglio di amministrazione che esaminerà le rilevazioni di Banca Italia e deciderà su un eventuale aumento di capitale. Hanno invece arginato le perdite le Lottomatica, meno 0,28%, nel giorno in cui la controllata americana G-Tech ha esteso per 10 anni il contratto con la giamaicana Supreme Ventures. Parmalat ha registrato un meno 1,49% in attesa di novità sulla contesa per il controllo dell'azienda. Sono crollate infine del 21% le azioni della Roma, approssimandosi al prezzo che pagherà la cordata americana capitanata da Thomas Di Benedetto per rilevare la squadra di calcio. Eleonora Micheli da Radio Cor per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Forti restano intanto i timori sul debito sovrano di Grecia e Irlanda. I rendimenti dei titoli di Stato di Atene sono volati a nuovi record, con lo spread verso il Bund tedesco ai massimi dai tempi dell'ingresso nell'euro. In Irlanda Moody's ha rivisto al ribasso il rating sul debito delle principali banche celtiche, relegandole alla categoria di investimenti speculativi. I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Milano hanno assolto le banche Morgan Stanley, Bank of America, Citi e Deutsche Bank, accusate di aggiotaggio informativo nell'ambito di un processo sul ruolo che avrebbero avuto nel crack della Parmalat, uno dei più pesanti crack nella storia europea. Assolte le banche, assolti i loro manager per non aver commesso il fatto. 8 anni dopo il crack della Parmalat, il Tribunale di Milano scagiona con formula piena gli istituti stranieri e i loro 5 manager a processo per aggiotaggio. Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley e Deutsche Bank, per i giudici Meneghini, non furono responsabili né complici di quei comunicati falsi mandati al mercato per alterare il titolo, ingannando così migliaia di risparmiatori. Un verdetto questo che si inserisce nella scia già tracciata da un'altra corte milanese che, sempre per aggiotaggio, ha già condannato l'ex patron Parmalat Callisto Tanzi a 10 anni, assolvendo invece Bofa, il difensore Nicola Apa. Il teorema Tanzi banche non funziona. Sulla stessa scia Nerio Diodà per Citigroup. Quella situazione finanziaria e industriale era penalmente non rilevante. Era un'indagine doverosa, si commenta in procura, dove si ricordano i patteggiamenti di Nextra e UBS, mentre sul fronte dei risparmiatori l'avvocato Carlo Federico Grosso, che ne rappresenta 32.000, ora dice: meno male che avevamo già sottoscritto le transazioni. Il numero, sia pure molto minoritario, che non ha voluto firmare, hanno ancora la chance di potersi di Parma per bancarotta. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Film e serie televisive aiutano il turismo. Basti pensare al successo della serie del commissario Montalbano, che ha portato in Sicilia molti turisti dal nord Europa. E per attrarre turisti dall'estero, le regioni italiane contribuiscono con fondi e agevolazioni fiscali alle produzioni audiovisive. Ha cominciato a farlo anche la Lombardia. Il presidente della Lombardia Film Commission, Alberto Contre, al microfono di Marta Cagnola. In un reality sulla moda che viene visto in 120 paesi del mondo, siamo riusciti a far inserire alcune scene in cui le modelle vanno a visitare il Cenacolo di Leonardo. Nel Rigoletto a Mantova, che si è tenuto il 4 settembre, anche lì 147 paesi del mondo, 1 miliardo di persone che hanno visto lo splendore del Palazzo di Mantova, altro che uno spot pubblicitario. L'ultimissima cosa è l'approccio a Bollywood, ci sono 8 milioni e mezzo di spettatori che adorano questi loro film, tutte storie d'amore strappalacrime. Appena però una di queste storie viene ambientata in un paese straniero, un buon 10-20% di questi 8 milioni ci vanno in vacanza. Siamo allo sport. Formula 1, dopo il Gran Premio di Cina vinto dall'inglese Hamilton sul tedesco Vettel, il mondiale è pronto per la sua prima tappa europea l'8 maggio in Turchia. Ancora in ritardo le Ferrari. Sentiamo il direttore della gestione sportiva di Maranello, Stefano Domenicali, sulle scelte tattiche della rossa. L'analisi deve essere fatta nel momento in cui la corsa si sviluppa, e soprattutto quando parliamo di distacchi così limitati nelle prime 6 posizioni, basta che un giro di traffico, un giro di più delle gomme si consumino, che onestamente diventa veramente facile analizzarla dopo. Io credo che, per quanto ci riguarda, da un punto di vista generale la posizione probabilmente non sarebbe cambiata. Con i secoli, ma c'è sempre la controprova da dimostrare. Un compleanno davvero speciale per il golfista italiano Matteo Manassero, che oggi compie 18 anni e che ha vinto con 272 colpi, 16 sotto par, il Maybank Malaysian Open, disputato sul percorso di Kuala Lumpur nella capitale della Malaysia. È il secondo titolo nello European Tour per il veronese, che ha superato di un colpo il francese Gregory Bourdie e di 2 colpi il nordirlandese Rory McIlroy. E per gli appuntamenti del giorno, oggi vi segnaliamo: il commissario all'allargamento Stefan Füle partecipa al Consiglio d'Associazione Europa-Turchia, Eurostat rende nota la bilancia sui pagamenti del secondo trimestre 2010, vari voti sono invece previsti nelle commissioni all'Europarlamento. Negli edifici di Bruxelles sarà presente anche il ministro dell'economia italiano Giulio Tremonti. A Kiev il presidente della Commissione Giuseppe Barroso partecipa al summit sulla sicurezza nucleare, mentre a Doha prosegue la missione dell'alto rappresentante europeo Catherine Ashton. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Una buona giornata da Sergio Nava.